una buona serata a Radio Città del Capo, 451 frammenti sonori, questa sera in compagnia di Max Macchia in solo, telefono così, forse dopo più tardi al mio compagno di viaggio, no, a parte gli scherzi, un saluto a Eliseo Scarpa che magari mi sta ascoltando dal suo Friuli, quella della sua terra, e in questo momento appunto si trova lì. Saluto anche Jerry che ha fatto una bellissima trasmissione prima, come sempre, di 451 frammenti sonori, che questa sera si occupa, poi neanche tanto per cambiare, di rumore, una piccola enciclopedia del rumore, parte prima, che questa sera appunto partirà qua da 451 frammenti sonori, per chi ancora non lo sapesse, e un'enciclopedia, quindi una faccenda anche piuttosto libera, per quanto insomma abbia un ordine, ma poi sappiamo che l'ordine alfabetico è piuttosto anche arbitrario, e di conseguenza così ci divertiremo. Questa sera mi divertirò in solo così a tirare fuori con le varie letterine i vari rumoristi e rumori che accompagnano le musiche da un bel po' di tempo a questa parte, da quando il benedetto, così si può dire, russo, lo futurista, inventò gli intonorumori, quindi fu finalmente inserito il rumore come vero e proprio strumento, come proprio vera composizione, come vera e propria struttura sonora, se non vogliamo chiamarla musicale. Poi c'è stato Stravinsky, poi c'è stato Varese, Cage, eccetera eccetera. Non parleremo probabilmente tanto dei grandi padri del rumore, anche se magari si potrebbero anche inserire. Parleremo più che altro dei loro figli, se non addirittura dei loro nipoti. Sicuramente tra i nipoti si può annoverare Zev, un grande percussionista americano vicino all'industrial, però di taglio sicuramente più sperimentale, meno rockish se vogliamo. E quindi Zev, nel corso della sua carriera più che trentennale, ha elaborato un suono metallico percussivo veramente unico, trattando la percussione come elemento non soltanto ritmico, non soltanto come beat, ma un qualcosa che potesse appunto espandere a livello sonoro la propria poetica musicale, fatta appunto di rumori concreti, di sonorizzazioni di spazi desolati, di grande vocazione comunque. No, stasera le parole un po' così vengono mangiate, magari anche un po' il freddo, così mi scusate, e creando appunto dei paesaggi sonori molto evocativi che danno alla musica un di più a livello di rumore, e in questo caso tra l'altro accompagnandosi a un pronipote, o forse non so, un figlioccio suo, per tanti versi potrebbe considerare sia uno che l'altro, per rimandi musicali e sicuramente per una faccenda anagrafica che lo vede più sicuramente come figlioccio, Pita, che lavora sul digitale, ma in questo caso ha elaborato un disco veramente superbo insieme a Zev. Un paio di anni fa usciva questo gioiellino rumorista, e una dialettica veramente molto fine per quanto riguarda l'elaborazione del suono percussivo da parte di Zev, che rientra dentro la frequenza e l'elaborazione post glitch di Pita, Peter Reberg, che negli anni zero ha fatto del glitch piuttosto rumorista, anche dando una via alternativa ai vari minimalismi che si muovevano dentro quella forma e quella struttura sonora, quindi per molti versi ha aperto anche quella strutturazione che adesso si vede soprattutto e si sente in America. Zev e Pita, quindi, per iniziare questa piccola enciclopedia del rumore, non potevamo che iniziare con la Z, ecco, là sarebbe stato un po' troppo banale. Ebbene, Zev, insieme a uno dei grandi maestri di questi anni per quanto riguarda le sonorità digitali, ma non solo, poi per quanto riguarda Pita si può parlare di un mondo intero del rumore. I suoi riferimenti starebbero qua bene, magari in una, già questa sera sentiremo qualcosa che si avvicina a quel paesaggio sonoro che ispira tanto Peter Rehberg, ovvero Pita, e stiamo parlando di White House. Questa sera ascolteremo un progetto che c'entra qualcosa con William Bennett, appunto, della storica sigla. Quindi con Pita si va a trovare quel mondo sonoro digitale, sì, ma con la memoria dell'analogico, con una memoria comunque legata a quel suono brutista che è figlio del suono concreto di Schaeffer, di Pierre Ri, e prima appunto abbiamo citato anche i nomi dei grandi padri dell'avanguardia storica. Con Zev si va a trovare un padre, uno dei grandi poi manipolatori del suono industriale, uno di quei suoni che sì brutista, sì urtificante, sì antagonista su tanti versi, anche su quello squisitamente musicale, se vogliamo metterlo su questo piano. Ma con Zev si va anche a trattare una composizione piuttosto sopraffina del trattamento, appunto, delle batterie, delle percussioni, di tutto quello che è percutibile a livello metallico. Non a caso Glenn Branca l'utilizzò per una delle sue primissime sinfonie, uscendo veramente in maniera clamorosa con una probabilmente delle sue più belle sinfonie rumoriste. Anche Branca chiaramente potrebbe starci tranquillamente, questa piccola enciclopedia del rumore. Comunque, appunto, questa è una prima parte, ce ne saranno varie, e la faccenda appunto è piuttosto mista, visto che si può veramente arrivare dove diavolo si vuole estraendo una lettera a caso del nostro dizionario o enciclopedia, in questo caso, per meglio dire, visto che questa sera è titolata appunto Piccola enciclopedia del rumore, 451 frammenti sonori, in compagnia appunto mia, di Max Macchia. Vibro è un oggetto sonoro. Quindi non soltanto lì come abbellimento, magari come tanta musica resa estetica, anche con un artwork piuttosto bello, come se ne sono visti tanti negli anni zero e soprattutto negli anni 2000. Vibro è un oggetto sonoro perché, oltre a essere una scatola che contiene uno splendido CD e una splendida compilation, è anche ricca di informazioni sulle varie progettualità che si muovono su un lo-fi piuttosto spinto, sia per quanto riguarda un lato rumorista, sia per quanto riguarda un'elettroacustica, field recording, astrazioni elettroniche di vario tipo. La natura comunque appunto si muove su quella lunga scia, quel filo rosso di musiche che si cibano di rumori, di suoni trovati, quindi l'objet trouvé. Il vibro infatti fa parte di quel giro musicale francese particolarmente legato alle grandi sperimentazioni di Pierre Boulez, quindi tutta la INA GRM che continuerà poi, e tuttora lo fa, il discorso della musique concrète dagli anni 50 in poi. INA GRM partirà intorno alla fine dei 60, appunto, elaborando ancora linguaggi piuttosto particolari. Vibro sicuramente appartiene a questa scia. Tre sono le compilation, questa sera ne ascolteremo due. La prima è dedicata all'Inside Out, con Project Dark e con Alex Hamburger, due sorte di divisioni appunto rumoriste del suono musicale, e non è soltanto un gioco di parole, visto che il suono è preso, per quanto riguarda Project Dark, da vecchi vinili, da quindi turnablism, e quindi un suono che non si vorrebbe musica, ma appunto che rimane magari dentro l'arrangiamento musicale, che invece in questo caso diventa proprio strutturale, diventa un proprio pezzo musicale, quindi una sonorizzazione appunto musicale, come dicevo prima, un giochino di parole che però la dice lunga su poi atteggiamenti non soltanto estetici ma di fatto tecnici, compositivi, che vanno avanti da un bel po' di anni. Questi sono giovani artisti che si muovono appunto non probabilmente elaborando niente di squisitamente nuovo, ma appunto dalle grandi mosse dei maestri riescono appunto a elaborare un linguaggio tutto loro. Alex Hamburger invece viene dalla Sound Poetry, dal Object Poem, quindi anche lui una sorta di viaggio dentro la sonorizzazione del non musicale, che invece straordinariamente appunto si struttura musicalmente e quindi diventa pezzo musicale. Ci andiamo a sentire appunto da questa Vibro numero 1, poi sentiremo altri artisti dedicati appunto alla V, in questo caso prima era Z con Zev, V per la nostra piccola enciclopedia del rumore parte prima. mas eu falo da parte deles, da empresa. E da pizza, que ainda não chegou. Não, não, da empresa você não respondeu. E così finisce il nostro Alex Hamburger, personaggio anche dal nome piuttosto curioso, finisce con una citazione diretta sulle radio e sulle onde di quello che era la radio music di John Cage. Troveremo anche un altro esperimento che appunto, come dicevo prima, si rifà un po' ai papà, e che papà in questo caso John Cage. In realtà poi, come vi dicevo prima, sia Project Dark che Alex Hamburger fanno un discorso sulla sonorizzazione per quanto riguarda Hamburger dell'oggetto, o quindi dell'oggetto che modificandosi riesce a creare un suono che struttura poi un pezzo, e per quanto invece riguarda Project Dark, progettualità di quattro francesi, invece si va a ritrovare il suono estremamente anche evocativo, non soltanto dentro il rumorismo, se pensiamo all'hip hop, quindi il turntablism e i piatti che suonano, i vinili che screcciano o che danno appunto sonorità che in questo caso non vengono sonorizzate in termini arrangiativi, ma vengono appunto sonorizzate in termini strutturali. E dentro sempre Vibro, dentro l'oggetto sonoro che stiamo trattando questa sera come V della piccola enciclopedia del rumore, andiamo a trovare Frédéric Galeai e dopo un personaggio che non ha grosse presentazioni, bisogno di grosse presentazioni, visto che è mica Vaigno. Per quanto riguarda Galeai, personaggio piuttosto originale, visto che nel pezzo che stiamo andando a sentire, a ascoltare, l'Undi, c'è una sorta di miscuglio e di rimescolamento delle storie di Cristo e Don Chisciotte in versione piuttosto astratta, ricorda insomma anche un po' le epopee bislacche dei Residents. Galeai, per meglio dire, utilizza il suono dei minerali, vari metalli insieme a questi processati che danno appunto una sorta di drone decisamente siderurgico, se potremmo definirlo tale, che appunto esprime in maniera decisamente calibrata quello che può essere appunto un drone rumorista digitalizzato, ma con veramente una caratura artistica decisamente elevata, come d'altronde non potrebbe essere altrimenti con Mica Vaigno, metà dei Panasonic, e con le sue iperboli musicali, questi suoni che appunto esplodono e diventano veramente delle sorte di sonorizzazioni dell'impossibile, di un mondo appunto sonoro che sta dentro le macchine, che sembra appunto quasi fuoriuscire per appunto disegnare un mondo di grande poetica, appunto decisamente violenta, sempre sulle corde di Panasonic, e che a volte ha dato anche veramente in maniera superba indicazioni anche a quelle che saranno state le ritmicità preponderanti di certa techno di ricerca che Mica Vaigno con i suoi progetti, i suoi svelati progetti creerà. In questo caso ci sentiremo un Vaigno appunto che sonorizza e che drona appunto in maniera decisamente magistrale, un suono che di per sé forse non vi dirà niente, così detto appunto come frequenza, se ascoltato come tale, ma appunto dentro la sua elaborazione diventa veramente un paesaggio sonoro di grande suggestione. Quindi Frédéric Galeai e poi Mica Vaigno, sempre ovviamente da Vibro. Thank you.

Beh, sicuramente per Mika Vainio non si può non parlare di grande maestria, in effetti un maestro veramente nel farci ascoltare il suono non udibile, quello delle frequenze, o di quel suono che è semplicemente in sottofondo quando le macchine funzionano male, sia quelle analogiche, ma poi per tanti aspetti, visto che vanno anche elettricità quelle della computeristica, quelle digitali, quindi tante volte si crea anche lì della massa sonora. Qualcuno potrebbe dire, vabbè, io lavoro con la wireless, sempre fatto di circuiti che comunque volendo o non volendo creano frequenze dentro comunque sistemi appunto che non sono più analogici ma sono digitali, ma comunque appunto continuano a creare delle sorte di fastidi, di qualcosa di imperfetto che è anche dentro il mondo digitale. Attraverso questa imperfezione sia Pansonic ma soprattutto Mika Vainio da solo, soprattutto perché in questo caso lo stiamo ascoltando appunto dentro Vibro e dentro questa piccola enciclopedia del rumore parte prima, si va appunto a trattare quel udibile non udibile che con Vainio diventa un suono iperbolico, diventa un suono di grande potenza. E anche come dicevo prima per Zev, qua c'è una grande vocazione dentro sonorità che si fanno paesaggio e sonorizzazione anche di una sorta di impossibilità, se vogliamo, poi in realtà resa e non resa più tale attraverso il trattamento appunto di questo suono o di queste frequenze che diventano delle strutture sonore piuttosto musicali. E come, visto che anche gli intervalli che si vengono a creare, questi momenti di abbassamento totale quasi del suono, quindi quasi una sorta di silenzio che comunque si fa sonoro appunto attraverso un intervallo di tempo che conosce decisamente bene Mika Vainio come strutturazione appunto dentro le sue musiche, si va appunto a creare questa sorta di iperbole sonora veramente di grande fascinazione. Ci ascoltiamo Selan et Tan, questi sui francesi, faccio una correzione al volo prima di farvi ascoltare qualche secondo di Selan et Tan, sempre da Vibro, o la V appunto di piccola enciclopedia del rumore, questa sera qua 451 frammenti sonori. Vibro, come dicevo prima, è un oggetto sonoro. Per ora sono tre gli oggetti sonori, stiamo analizzando il primo, poi nella seconda parte passeremo alla Vibro 3. E faccio appunto una correzione: Project Dark non sono quattro francesi ma bensì cinque inglesi. Ne passo un po', comunque il suono era quello, l'avete sentito. Con Selan et Tan si va sulla mappatura sonora, in questo caso un miscuglio tra Tokyo e Genova, e una diavoleria insomma che si articola tra video e suono, anche qua di grande narrazione musicale, così potremmo dirlo, non forse vocazione ma proprio una sorta di narrazione, una sorta di viaggio dentro le sonorità.